notte, senza stelle nell'oscurità, vien da lontano l'ultimo rumor della città, ed io che t'amo, ti sogno e bramo, farti mia Rosì, folle di passione, vengo ad implorar fin qui. Il perduto amore che mi strazia il cuore, sempre in uno schianto in me, sento che non so più vivere senza di te. Nella notte bruna, fredda e senza luna, piange il tuo Pierrot, che pur lontano soffrendo t'amò. Vien che per l'ombrosa valle misteriosa, soli stretti insieme, il mondo intero noi scorderemo. Ma la finestra resta chiusa nell'oscurità, forse l'amore chissà quali baci sognerà, mentre il mio canto, sospiro e pianto, eco di dolor se ne va lontan come un disfogliato fior. E tu dormi e taci, tu che non hai baci per il tuo Pierrot che fu primo ed ingannato palpito di gioventù. Nella notte bruna, fredda e senza luna, me ne vo lontan per il mondo errante e senza domani. E così, amor mio, cercherò l'oblio nell'immensità del mio dolor che mai fine avrà. Andrò, e questo è il pianto del tuo.